Sono stata contattata dal fratello di un detenuto il giorno stesso della rivolta del carcere, perché non sapeva se suo fratello fosse vivo o morto e dove l'avessero spostato. Quindi diciamo che il contatto è stato indirettissimo, per cui abbiamo aiutato questo familiare a cercare di capire intanto appunto che il fratello fosse vivo e dove l'avevano spostato, perché la questione dei trasferimenti è stata veramente drammatica in quei giorni caldi dopo la rivolta dell'8 marzo. Poi invece l'organizzazione più ampia è venuta come idea di quello che è il Consiglio Popolare di Modena, perché da quando abbiamo creato questa cosa che è il Consiglio Popolare abbiamo subito attenzionato la questione delle morti in carcere, perché per una città piccola come Modena, ben pensante come Modena, è la più grande strage dal dopoguerra, quindi insomma non si può far finta che non sia successo come vorrebbero tanti, soprattutto le istituzioni. E quindi insomma dal Consiglio Popolare è partita questa chiamata, si hanno risposto moltissime organizzazioni, in realtà associazioni eccetera eccetera, e diciamo che abbiamo iniziato questo percorso che per ora appunto ci porta a presentarci intanto alla cittadinanza, e poi vorremmo fare una grande mobilitazione per il 7 marzo, che è la domenica prima dell'anniversario tragico dell'8 marzo, appunto anche in rispetto a quelli che sono gli scioperi femministi eccetera eccetera. E poi stiamo costruendo diciamo un dossier che mese per mese raccoglie quello che si è saputo, a che punto sono le indagini, più tutta una serie di testimonianze inedite che insomma abbiamo raccolto noi appunto con le persone con cui stiamo lavorando su questa questione. Proprio su quest'ultimo punto ricordo agli ascoltatrici e ascoltatori che magari non sanno bene la questione che il bilancio è stato di 9 morti, e le prime diciamo versioni ufficiali parlavano di morti di overdose, però poi c'è stata la denuncia di 5 detenuti che hanno riportato di pestaggi e violenze, quindi per questo che si sta ancora indagando. Esatto. Al di là delle 5 testimonianze, cioè, o meglio, non sono solo queste 5 testimonianze, sono molte di più quelle che dicono che la versione ufficiale non è soddisfacente, cioè non è andata proprio così. Quindi la versione ufficiale non ci convince, questo è poco ma sicuro. E anche dovessimo prenderla per buona, comunque in Italia non esiste la pena di morte, tu in carcere non devi morire. Quindi il problema è che anche sia stata veramente questo suicidio collettivo, chiamiamolo così, per cui c'è stato l'assalto all'infermeria e sono tutti morti di metadone, ok, però c'è l'omissione di soccorso, c'è la questione che 4 persone sono state trasferite in fin di vita, perché 5 persone sono morte a Modena, ma 4 sono stati trasferiti, ricordiamo questa cosa, e sono morti nei carceri di arrivo, diciamo, tra cui insomma quello più noto grazie agli articoli soprattutto di Lorenza Pleuteri, quello più noto appunto è Sasa Piscitelli, che è morto ad Ascoli. Anche qui insomma subito la versione ufficiale delle istituzioni penitenziarie è stata che lui fosse morto in ospedale, ma non è vero, lui è morto in carcere, questo ormai è un dato, e quindi insomma diciamo che l'omertà sta iniziando insomma a rendersi palese, quindi bisogna andarci molto più a fondo di così. Come ti dicevo, il 7 marzo vorremmo fare questa chiamata grande, quindi insomma invito tutte e tutti quelli che sono in ascolto a tenere presente questa data. Poi chiaramente dovremo capire cosa si può fare con l'emergenza Covid, a che punto saremo e tutto quanto, però l'idea nostra sarebbe quella di fare questa grande manifestazione il 7 marzo davanti al carcere di Sant'Anna, in modo da poterci far sentire anche insomma da chi è dentro e stando vicini a chi è anche dentro, perché effettivamente una cosa che abbiamo capito dalle varie testimonianze che abbiamo raccolto è che chi viene da Modena è stato spostato in altri carceri, o chi è rimasto a Modena sta vivendo molto male a seguito della rivolta, nel senso che chi era nel nostro carcere cittadino viene punito fondamentalmente. Addirittura un familiare di un detenuto ci ha detto che il detenuto in questione avrebbe diritto alle pene alternative con tutte le carte in regola per avere le pene alternative, ma non gliele danno perché lui era a Modena durante la rivolta. Poi non gli fanno, li hanno tenuti in isolamento per 60 o 70 giorni con la scusa della quarantena, che però la quarantena dovevano essere 15 giorni, in realtà sono stati appunto 60-70 giorni di isolamento in cui non hanno ricevuto i pacchi dalla famiglia. Credo che di dire cosa nota a tutti che se non ricevono i pacchi dalla famiglia non hanno niente in carcere, perché in carcere non ti passa nulla. Certo. E per questo motivo, tra l'altro, stiamo cercando di costruire una rete di persone che mandino pacchi a chi era in carcere a Modena, soprattutto alle persone che sono state spostate magari in altre città, quindi hanno perso la solidarietà delle persone che conoscevano qui a Modena, fondamentalmente sono sole senza famiglia. Abbiamo mandato ad esempio un pacco a un ragazzo che adesso è stato spostato ad Alessandria, perché lui appunto è qua senza famiglia e quindi bisogna che qualcuno gli dia una mano. Come si può entrare in contatto con voi se avete canali, social, siti, cose di questo tipo? Diciamo che il comitato di per sé l'abbiamo voluto tenere più fluido e leggero possibile, però si può scrivere o seguire il Consiglio Popolare, Consiglio Popolare di Modena, è sia su Facebook che su Instagram. Poi abbiamo anche la mail, comunque consiglio.popolare@gmail.com.